A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Ridendo e scherzando, mancano tre giorni al derby di Milano. È vero che da tanti giorni, anzi da settimane, ce n'è in corso un altro per aggiudicarsi niente meno che Tevez, ma quello che conta e che peserà per tre punti si gioca domenica sera, e stamane è stato affidato alla direzione di Orsato al suo debutto assoluto in un derby, non soltanto quello milanese, ma in un derby in assoluto. Va avanti la Coppa Italia, che stasera avrà un'altra puntata con il Napoli impegnato. Ieri c'è stata la sorpresa grossa poi lo vediamo, dell'Udinese che ha perso sul suo campo contro il Chievo, ed è un verdetto che potrebbe riverberarsi un po' sul campionato. In che senso? Nel senso che l'Udinese è stata costretta a fare turnover. L'Udinese che sta perdendo, anzi ha già perso per un mese tre giocatori cardine che, come si sa, andranno a giocare la Coppa d'Africa. Bene, anzi male, l'Udinese è costretta ad affidarsi alle seconde linee con la presenza di Natale, soltanto a fare da collante e da capo carismatico. Hanno dimostrato queste seconde linee di non valere come si temeva le prime, e quindi questo significa che il prossimo mese sarà molto difficile per la squadra di Guidolin, e quindi dipenderà da quanto riuscirà a restare agganciata alla testa in questo periodo, poi il prosieguo della sua stagione. E c'è poi la vicenda, a proposito di Milano, tragicomica direi, anche se non del tutto inedita, a cui tutti i giornali hanno dato grande risalto, di una squalifica, di un cartellino giallo, non credo rosso, ma giallo certamente sì, è prolungato, da parte del Milan nei confronti dell'azienda editoriale televisiva di casa, e cioè nei confronti di Mediaset. Tutto è scaturito da un battibecco duro che c'è stato domenica tra Allegri, a caldo, subito dopo la partita di Bergamo, e l'arbitro Paparesta, l'ex arbitro Paparesta per fortuna, nelle vesti di opinionista proprio delle reti Mediaset a pagamento in questo caso. E allora, dato che questo è diventato un po' un affair in questa settimana, e dato che il Milan per l'appunto ha decretato l'ostracismo a questa testata con l'ovvia reazione del comitato di redazione, comunque degli organi anche sindacali dell'azienda editoriale, cioè di Mediaset, allora sentiamo come tutto era nato, e cioè questo battibecco che Franco Piantanida è andato a ripescare per ricostruire l'accaduto a caldo subito dopo Atalanta-Milan. Poi io a scuola sono andato poco, purtroppo è stato un mio handicap nella vita. Però a fisica mi hanno insegnato che attraversare un corpo solido è difficile. E quindi Pato sta coprendo la palla e Manfredini, per prendere la palla, prende Pato. È un'interpretazione, non si può essere sempre d'accordo. Manfredini è davanti. Ma davanti dove? Scusi, la geometria. Ma scusi Allegri, riguardi l'immagine, non vedi che è davanti Manfredini? No, sta forse, andando a rinviare. Forse con la gamba destra va sulla gamba sinistra di Manfredini. Io credo che la ma dove? Come? Sta coprendo. No, può essere più chiaro. La palla è dalla parte di Pato o dalla parte di Manfredini? Scusi, chi è più avanti rispetto alla palla in questo momento? Se non interviene Pato con la gamba destra, impedisce a Manfredini di calciare. Chi è davanti? Se la palla fosse più vicina a Pato, a dare ragione a lei, mister. Il problema è che la palla non è vicina a Pato. Cioè la palla non è a distanza di gioco. E domanda a Paparesta, quando arbitrava, è andata anche di peggio. E voglia. Beh, insomma, abbastanza tosto, direi, come sconto. Ma poi, dal mio punto di vista perlomeno, sempre fatto, cioè sbagliato all'origine, non i comportamenti di ciascuno, che poi quelli li valutano i diretti interessati, ma sbagliata proprio l'impostazione, nel senso che si parlava e si giudicava, evidentemente, io non ho visto, ma basta sentire, su fotogrammi fermi, cioè non sull'azione dinamica in essere, ma sul fotogramma fermo, che è quanto di più ingannevole possa esistere in uno sport di movimento. A proprio il movimento, mi pare di vederne dalle parti della regia, potrebbe esserci tra poco un intervento della redazione, anche perché insomma è in corso in Parlamento qualcosa di importante. È ovvio che la linea può essere richiesta in qualsiasi istante. Vi dicevo di Orsato che arbitrerà Milan-Inter in programma domenica sera, mentre a Tagliavento invece è stato affidato l'anticipo tra Catania e Roma di sabato sera. Breaking news. Sì, buongiorno. La Camera sta votando sul caso Cosentino. La linea subito a Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Sì, la Camera nega l'arresto a Nicola Cosentino. 298 sì contro 309 no. Quindi Cosentino rimane deputato e non andrà agli arresti come chiesto dai magistrati napoletani. Ricordiamo che è stato chiesto lo scrutinio segreto dal PDL. Questo, ripeto, il risultato. 298 sì per l'arresto, 309 no. La Camera respinge la richiesta dei magistrati napoletani. Dario. Bene, grazie a Elisabetta Fiorito. Daremo ulteriori approfondimenti nei prossimi notiziari. Bene entro certi limiti, ma insomma, torniamo agli arbitri, che è meglio. Milan-Inter Orsato, vi dicevo, Tagliavento invece arbitrerà l'anticipo di sabato sera tra Catania e Roma, mentre a Marco Guidi, il giovane Guidi di Torre Annunziata, è stata affidata Juventus-Cagliari. Infine il posticipo di lunedì sera, perché bisogna cercare di non farsi mancare molto nello spalmare le partite, Napoli-Bologna è stato affidato a Brighi. Sempre di stamane una notizia che riguarda la tessera del tifoso, no? Era un po' passata in secondo piano. Stamane se ne è occupato, dopo quella famosa bocciatura di cui è riferito nelle scorse settimane, se ne è occupato l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive nella prima riunione dell'anno 2012, presieduta dal Roberto Sgalla, che recentemente è stato nominato al vertice di questo organismo. Ha dichiarato che la tessera del tifoso rimane il cardine della sicurezza nelle manifestazioni sportive, ma dovrà essere ulteriormente implementata dai club nella direzione di un vero e proprio servizio per il tifoso, e non soltanto, come peraltro accaduto solo in pochi casi, come strumento di attuazione di politiche commerciali. Ricorderete che questo era stato il motivo del contendere, il fatto che questa tessera avesse fini commerciali, non poi nemmeno così secondari. Nel frattempo, dato che si è detto e si è scritto che il presidente del Genoa Preziosi abbia avuto un ruolo nella missione che Milan, capitanata da Galliani, sta effettuando in queste ore a Manchester per chiudere la trattativa con Tevez, Preziosi ha appena dichiarato: io il regista di questa operazione, no, l'esecutore, che non è male come dichiarazione. A questo di buono il derby di Milano rispetto ad altri, penso soprattutto a Genova, ma anche a Roma, a Torino, dove dove il tifo rischia spesso di degenerare in un po' di tribalità. A Milano è diverso. Il derby, la rivalità ce l'ha dentro di sé, certe volte è molto accesa, ma è sempre entro certi limiti. Allora da qui l'idea di provare a giocare l'anteprima di questo derby, un'idea tra l'altro mutuata da un servizio apparso qualche settimana fa sul magazine della Gazzetta dello Sport, in pieno relax, tra due grandi chef, due griff della cucina italiana di nuova o recente generazione. Vi presento dunque Carlo Cracco, dell'omonimo ristorante nel cuore di Milano, e Davide Oldani, del Do di Cornaredo. Scambiatevi innanzitutto un segnale di pace. Cracco. Ciao Davide. Ciao Carlo. Iniziamo col terzo tempo, al contrario facciamo. Cioè la stretta di mano all'inizio e dopo vediamo. Come di santo nelle buone e nelle grandi cucine. Vabbè, allora in classifica davanti c'è Carlo Cracco. Allora, tifoso quanto e che messaggio c'è subito per Oldani? Ma tifoso pochissimo, nel senso che non ho molto tempo da dedicare al calcio, però mi piace il gioco, mi piace la sfida, mi piace questa stracittadina che diventa sempre un evento, no? Per sì. Cui è emozionante, adrenalina, no? Che poi con un locale a 30 metri a Piazza del Duomo, no? Sì, è ovvio, no. Che questi giorni si vivono in una maniera un po' speciale. Oldani mi risulta che tifoso lo sia un po' di più invece. No, devo dire sportivo, perché sportivo. Da quello che dirò adesso capirai che sono sportivo, sì. Nel senso che capisco la supremazia del Milan, mm-hmm. E quindi credo che quest'anno dovremmo giocare un po' sulle difensive, perché mi sa che questi picchiano duro, però lo dico anche per mettere un po' le mani avanti, sì. Quindi ti faccio tanti auguri al mio amico Carlo. No, ma io più che altro voglio dire, spero che vinca il Milan, ma solamente così per un discorso, diciamo, che dobbiamo recuperare, no? Noi non abbiamo mai fatto la tripletta, ci dobbiamo provare. Almeno provarci. Però nel frattempo l'importante è stare avanti, no? Questa io dico, perché a noi ne mancano 9, dico, ne mancano 8 di coppe, anzi 6 di coppe per raggiungerle, quindi... Certo. Questo sì, bisognerebbe provare a portarsi in pari da parte vostra. Cracco. Tutte e due. Cracco, dunque, sì. Vabbè, voi è chiaro che con la cucina siete davvero all'avanguardia. Col pallone come se la cavava? Ci ha giocato, ci ha provato, ci ha... Ma il pallone ogni tanto lo vedevo, è che non correndo non riuscivo mai a prenderlo, cui ho abbandonato subito. C'è quel problemino lì. Oldani invece che col pallone se la cavava e come, ha abbandonato per ragioni diverse. No, io invece, come gran parte dei ragazzini italiani che c'era il sogno di diventare calciatore, ho esagerato un po' facendo qualche partita di troppo, dove ho trovato il portiere che mi ha rotto la gamba, ho fatto tibia e perone, esposta e scomposta, poi ho fatto benissimo, quindi poi ho dovuto abbandonare, però ero arrivato comunque in C2. Beh, e all'epoca con la difesa da libero, stopper, mediano, centrocampista, l'8 e il 10, quando c'era l'8 e il 10, con i numeri così che specificavano il ruolo, era sicuramente un gioco magari un po' meno fisico, però molto duro, perché c'erano molto meno giocatori di classe, ma erano più concreti, no? E tra il concreto così c'era anche quello che ti spaccava le gambe. Certo. Il periodo in cui Roberto Baggio si ruppe il tibia e perone, nello stesso periodo. Stiamo parlando di quegli anni lì, perché lei ha 43 anni. Sì. E quindi stiamo parlando di quell'epoca. E quindi nel periodo in cui c'erano tutte queste belle cose, poi c'erano i tacchetti a 6, quelli in acciaio, non so se vi ricordate. Sì, grazie. C'erano tutte queste belle cose dove solo a vedere i tacchetti quando entravi in campo ti spaventavi. E quindi per aver disubbidito, cioè io ero già nei professionisti, aver disubbidito, quindi non potevo fare questo torneo a scuola, ma fai, ti convinto dai colleghi, dagli amici, dai compagni di classe, fai perché tu giochi in C2, sei forte, ci aiuti, vinceremo. E mi sono trovato in mezzo al campo con la gamba fracassata, e da lì è partito tutto il calvario del ginocchio, della... Vabbè, però si è anticipato, insomma, non tutti i mali vengono per nuocere, Oldani, si è anticipata una grande carriera, no? No, devo dire di un altro genere. Ho assimilato il gioco di squadra, l'ho assimilato poi mettendolo nella cucina, perché alla fine il ristorante è un gioco di squadra, quello che dico sempre io. Certo, voi siete anche un covo rispettivo, cioè adesso mi rivolgo di nuovo a Carlo Cracco, è passata la diciamo, non dico nella tifoseria normale, anche perché diciamo che il suo non è esattamente un locale popolarissimo, no? È un locale d'élite e ci mancherebbe altro. Ma perché d'élite è un locale di qualità. Di qualità, esatto. Di eccellenza. Esatto. Allora, il locale d'eccellenza è diventato anche un covo milanista o no? Cioè, non lo so se si possa definire un covo milanista, perché comunque ci vengono a mangiare anche tanti interisti, per cui voglio dire... L'importante è non guastarsi, no, da questo punto di vista? No, ma voglio dire, è come due grandi squadre come Inter e Milan, voglio dire, sì, uno può essere più tifoso o meno tifoso, può essere più sportivo o meno sportivo, ma voglio dire, le competenze... E diciamo l'importanza di due squadre così vanno oltre, certo, diciamo, i covi. Credo che il covo inteso come una volta erano alcuni ristoranti. Ecco, era lì che volevo arrivare. No? Credo che esista un molto meno. Molto meno sentita. Ma poi Carlo, scusami, quando vengono giocatori da noi, siamo noi che facciamo la parte degli altri giocatori e loro vengono a guardare, quindi sono un po' schisci da noi, giusto? Sì, no? Sì, certo. Se sempre non c'è questa grande... differenza, nel senso che, infatti ripeto, vengono tutti e due, anche juventini a volte, per cui voglio dire, non è che ci sia questa grande differenza. L'unica cosa, ecco, che fa piacere vedere comunque degli sportivi così importanti che hanno anche una sensibilità riguardo al cibo. Ecco, facciamo qualche esempio senza voler violare alcuna legge sulla privacy, ma di questi grandi campioni, chi per esempio vi è capitato di vedere attento, curioso ai sapori, agli abbinamenti? Ma tantissimi, faccio un esempio che ha toccato tutte e due le squadre, che è Leonardo. Sì. Leonardo è un grandissimo gourmand, molto fine, molto raffinato, competente, cliente ideale. Cliente ideale. Per Oldani, per il Do? Ma per Oldani noi abbiamo fatto solo un mese fa, neanche 20 giorni fa, la cena per la mia società, dico mia società Inter, sì, e devo dire che sono stati tutti molto attenti, accorti a fare poi complimenti, ad aver apprezzato ciò che era il cibo, nonostante fossero tutti quanti, poi più che meno, però tutti quanti li ho visti molto attenti nell'assaggiare una cosa, l'altra, chiedere, e quindi questo mi ha fatto molto piacere, a partire dal presidente, arrivando a Obi piuttosto che al capitano. Arrivando a Obi piuttosto che al capitano, so di dovervi lasciare. Chiuderei con un'anteprima. E mi rivolgo prima a Cracco: se domenica il Milan vince questo derby, che piatto le viene in mente di proporre a un milanista che avesse voglia di celebrare? Un piatto per celebrare la vittoria? L'eventuale vittoria. La vittoria darei quasi, insomma, spero che sia un uno pieno. Sì. Non so se giochi in casa il Milan o sì, l'Inter, sì, io non sono neanche quelle robe lì perché le ho scoperte dopo. Vabbè. Però. No, gioca in casa. Gioca in casa, per cui un uno pieno, oh. Ma direi, andrei sul sicuro, farei una spaghetti al pomodoro con sì. Con due semi di basilico, proprio semi di basilico, che riprende un po' il rosso nero. Sì, piano, semplice. Sì, semplice. Semplice, basico, senza... Però perfetto, questo deve essere impeccabile. E dall'altra parte invece, se vi riesce il colpetto che vi avvicinate un po' di più? No, queste cose non vanno mai dette, no, ho certo. Imparato nelle precedenti interviste, io direi solo che offrirei magari il mio riso alla milanese, quello dove non cucino zafferano con il riso, ma lo metto, se faccio un'infusione di zafferano, lo metto sopra un velo di riso, certo. Per far vedere che comunque l'innovazione fa parte anche della tradizione, no? Quindi proporrei sicuramente il mio modo di vedere il riso allo zafferano, un piatto che abbiamo fatto per ogni anno e che piano piano stiamo portando avanti in maniera molto solida e forte sulla tradizione. Stretta di mano tra Carlo Cracco e Davide Oldani. Sempre stretta di mano con Davide. Ciao Carlo, tra professionisti. Fatti vedere. Sì, ci mancherebbe. A presto, spero. Ciao, sempre davanti, Davide. Che mi sta bruciando le cipolle, ragazzi. Buona giornata, grazie. Ciao, a tutti. Ciao, grazie a tutti e due, grazie. Ciao Davide. Ciao. Il derby stemperato di due stellati, poi il ristorante di Carlo Cracco è stellato due volte, quello di Davide Oldani una soltanto per il momento, ma insomma c'è tempo per salire ancora. Tra le mail arrivate in questo breve intervallo ho scelto questa. Direi che oggi abbiamo iniziato male la trasmissione. Prima il diverbio tra due giganti del pensiero come Allegri e Paparesta, poi la breaking news su quello che è successo alla Camera, dove i nostri intrepidi rappresentanti hanno perso una volta di più l'occasione per affrancarci dall'immagine di mafiosi che ci portiamo in giro per il mondo. È un po' greve, ma l'ho letto perché lo trovo significativo, nel senso che è firmato Claudio, arriva da Stoccolma questa mail, e quindi dove probabilmente, anzi certamente l'ottica è un tantino diversa, più ci si stacca dalla realtà e più la si vede con contorni diversi, diciamo. Però caro Claudio, insomma, poi abbiamo provato a risollevare un po' l'atmosfera, no? con questo derby tra stellati. Anche qui sono arrivati molti, molti messaggi. Per esempio c'è un ascoltatore che si domanda se il giorno 20, in cui è già prenotato da, da Aldo di Oldani, si domanda se riuscirà a mangiare questa famosa cipolla caramellata, visto che lui cliente è juventino. Immagino proprio di sì, non guai se si mischiassero, al di là degli scherzi, se si mischiassero il lavoro, la professione e il tifo, che come è noto fa male. Un ascoltatore, e poi quella agghiacciante lettura di un fatto di cronaca triestino. Luciano, chiamato dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Volevo fare questa considerazione su quello che è successo fra Allegri e Mediaset. Sì. Mi venivano in mente le parole di Casarin, cioè mi sembra che si passi da un eccesso all'altro, dall'eccesso diciamo è Mediaset che comunque affronta dei casi di Moviola in maniera molto aggressiva, dando quasi puntando un po' sui nervi dell'allenatore nel post partita, mentre si passa dall'altro lato, io che sono abbonato a Sky, proprio a non parlarne proprio più in maniera proprio palese, cioè cercando di evitare di parlare assolutamente di casi di Moviola. Ecco, prendendo spunto dalla prova di Casarin. Sky, però mi scusi Luciano, Sky l'ha sempre fatto, sì. Sky si è sempre comportata così. Sì, però voglio dire, prendendo era la Rai spunto, era la Rai che ha cancellato la Moviola, è la Rai che ha cancellato la Moviola, che ha cambiato completamente politica in questi ultimi due anni da questo punto di vista, non certamente Sky. Però mi veniva in mente il fatto che comunque bisognerebbe trovare una via di mezzo, perché se no facciamo che da quando si criticavano troppo gli arbitri con la Moviola asfissiante al fatto che non ci sia proprio più niente, per una critica costruttiva fatta con i toni giusti. Sì, sì, Luciano, no. Però l'ottica di Casarin era un po' diversa, l'ottica di Casarin era quest'altra, serviva paradossalmente agli arbitri la Moviola più che allo spettatore. Perché gli arbitri avevano qualche stimolo in più, no? Sapendo di essere così nel mirino, nell'occhio del ciclone, avevano probabilmente più stimoli, più input a decidere. Ripeto, un discorso abbastanza paradossale, ma comunque avevano in ogni caso molto, molto materiale, ecco, mettiamola così, più basico, avevano molto materiale su cui documentarsi anche rispetto ai colleghi, ma anche rispetto a se stessi. Invece di quel materiale ora ce n'è molto meno. Io ripeto, credo che sia un salto culturale non da poco, ma evidentemente possiamo, e ci mancherebbe altro, pensarla in maniera diversa. Vi ricordo 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta. Passo a Trieste, dove è accaduto la sera di martedì quanto segue. Poco prima delle 22, il presidente Aletti, leggo dalla cronaca del vecchio intramontabile Dante di Ragogna, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Trieste, il presidente Sergio Aletti, 52 anni, era uscito da una pizzeria di Villa Opicina sull'altopiano carsico, accompagnato dall'avvocato D'Urso di Ravenna e dal proprietario del locale. Stava fumando un sigaro, sono arrivati tre giovani, mi sembra la definizione buonista, che dopo aver bloccato illegale l'esercente ha colpito a pugni il dirigente alabardato, dileguandosi poi nella notte a bordo di una vettura. Sono arrivati i carabinieri di Aurisina, hanno avviato le indagini. Qualcosa sulla targa dell'auto insomma, sono riusciti a ricavare, quindi ci sono speranze. Fatto sta ed è che il presidente è stato soccorso e trasferito con l'ambulanza all'ospedale di Cattinara, dal quale era stato rimesso pochi giorni prima a seguito di un ictus che l'aveva colpito, e si è beccato altri 7 giorni di prognosi. Ora, il presidente Aletti diciamo che non ha fatto bene a Trieste in questi mesi, e forti sono i sospetti che la sua nuova gestione possa condurre la Triestina al fallimento. D'altra parte, se da qui dobbiamo arrivare a, non dico a giustificare, ma semplicemente a comprendere il fatto che la tifoseria irritata possa aggredire una persona, evidentemente abbiamo fatto qualche altro scalino, no? nella discesa del vivere civile, come erano stati fatti ancora in maniera più grave a Eboli il giorno precedente, dove un'intera squadra è stata aggredita in spogliatoio, ma a colpi di mazza e di pietre, eccetera, eccetera ancora. Torniamo al calcio, torniamo al derby, per esempio, alla vigilia di Thiago Silva, che fa un giro di orizzonte su alcuni degli argomenti freschi di questi giorni. Pato, vedo Pato quando solo con la maglia del Milan. È un giocatore di una qualità tremenda, no? In Brasile ha fatto bene, in Europa ha fatto bene. è successo un po' di casino lì con l'allenatore loro, però è un giocatore tremendo, se arriverà a Milan sicuramente farà tanti gol insieme a Pato, Robinho e Ibra, stiamo tutti qua. Non è facile giocare con Ibra, io lo so, anche da dietro vedo che Ibra è un po' cattivo, un modo di parlare, però è un giocatore che gioca sempre, dà tutto per la squadra. Quello che mi piace su Ibra, perché è un giocatore che vuole vincere, quindi ogni tanto sbaglia un po' il modo di parlare, però è un giocatore di una qualità tremenda. Ogni tanto sbaglia un po' di parlare, insomma, diciamo che è una formula molto, molto garbata, no? Soprattutto se usata da un compagno di squadra, ma insomma dà un pochino l'idea di come trattisi in ogni caso di un soggetto abbastanza difficile. Volevo proporvi una lettura a proposito di Ultra, la lettura, qua io parlo sempre, in questo caso parlo di mail, Marco Traversi, che è uno dei clienti più affezionati, scrive quanto segue: i giocatori minacciati, assediati, aggrediti dai gentiluomini che affollano le curve non fanno altro che pagare dazio al loro atteggiamento in campo, sono gli stessi che corrono verso la curva dopo un gol, festeggiano con loro e solo con loro a fine partita, che intrattengono rapporti con le delegazioni di ultra. Certificando questa referenzialità alle curve e a chi le popola, questi sono gli inevitabili risultati. Perché, si domanda Marco Traversi, Boriello deve giustificarsi di fronte al tribunale della curva che vive con quegli odiosi riferimenti all'onore e al tradimento? Perché i media danno tanto spazio a tutto questo? Io tifo Juve, a me Marco Boriello non deve nessuna spiegazione, peccato che gran parte del giornalismo sportivo la pensi diversamente. È un bello spunto di riflessione questo, mi pare. Gioacchino, dalla provincia di Caltanissetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare il coro un po' a quello che ha detto l'ascoltatore poc'anzi per quanto concerne un po' gli episodi della Moviola, che adesso vengono parecchio taciuti da un po' tutti, compreso anche lei, Garanzini, come quando tempo fa io la ripresi sul discorso che in Bologna-Milan non c'era alcun caso da rigore su Ibrahimovic non dato, perché l'azione era ripartita poi da un calcio di punizione. Lei mi prese quasi per matto, ma poi io con My Sky HD sono andato di nuovo a rivedere l'azione ed era esattamente quello che avevo detto io in trasmissione. Per matto non certamente per quello che ha detto, al massimo potrei prenderlo per matto perché lei è tornato a rivedere ancora quell'episodio. Secondo me la vita è altrove, mica per altro, sa, non... No, sicuramente, però siccome mi riprese allora dicendomi che non era per niente vero quello che avevo detto... Ma nel caso di domenica com'è invece? Nel caso di domenica io penso che non era neanche rigore. Ma sono d'accordo con lei, anch'io l'ho già detto sin da lunedì, che secondo me Manfredini intenta un anticipo, Pato è bravo a mettergli davanti, ma questo non integra un calcio di rigore in qualsiasi altra zona del campo, sarebbe stato dato fallo alla difesa. Però, perfetto, quindi vede che alla fine siamo d'accordo. Ma giustamente dopo tre minuti c'era un rigore molto più grosso dello stesso Manfredini su Ibrahimovic, e quindi vede allora che l'arbitro può sbagliare, ma nel caso di Atalanta-Milan aveva già sbagliato prima a danno del Milan, dopo aver sbagliato e poi successivamente sbaglia. Se sbaglia, secondo me sì, secondo lei pure, a vantaggio del Milan. E quindi dove starà il complotto, la congiura, tutto il resto di cui si è letto o si è sentito parlare? Tanti episodi a favore finora. Questo le sto dicendo, che nel caso di domenica no, per esempio. Nel caso di Bologna potremmo riavvolgere il nastro, come ha fatto lei, ma allora andiamo a vederli tutti gli episodi di quella partita, e se li vediamo tutti, secondo me neanche lì non c'era nulla che integrasse l'idea di un trattamento di riguardo al Milan, virgola, anzi, punto. Poi ciascuno rimane evidentemente della propria opinione. Piercarlo ha chiamato la Novara, buongiorno. Buongiorno Garanzini, volevo chiederle una cosa per quanto riguarda la prova televisiva per cui è stato squalificato Karasic l'anno scorso per 2 giornate, perché poi non si è più applicata a nessuno, vedi il caso di Cosso di domenica che si è strabuttato. Perché nessuno si è più tuffato come Karasic? Cosso l'ha fatto anche di peggio. Cossi? No, di peggio. Piercarlo. Rivediamo l'episodio di Krasic. Io non ci penso nemmeno a rivedere, come suggeriva l'ascoltatore prima. Cosa fatta capo A, vista e basta. Cosso va... Krasic si è buttato da solo. Anziché buttarsi. Kosu ha cercato l'ostacolo altrui, come fanno tutti, come purtroppo ormai fanno quasi tutti per lucrare un rigore, cosa assolutamente scorretta. Basta che lei non mi dica che è uguale a Krasic, che invece non si era nemmeno preso la briga di andare a cercare un contatto. Io la mia trappata è un'altra. Perché non viene più usata la prova televisiva? Perché chiaramente... Ma perché evidentemente viene usata su... Evidentemente, immagino io, fermo restando che non sono io che la invoco, Piercarlo, e tanto meno che la decido. Evidentemente perché viene usata solo per casi limite. Allora, si vede che i casi Kosu e altri sono considerati furbate, mentre il caso Krasic era stato considerato un caso limite. E devo dire che un senso ce l'ha... A parer mio, perlomeno, perché comunque c'è una differenza di simulazione molto, molto evidente, direi. Sembra ieri. 12 gennaio 1976 è il giorno della 156esima e ultima rete in Serie A di Gigi Riva. La bandiera del Cagliari firma il gol che consente ai sardi di aggiudicarsi una sfida delicata in zona retrocessione con il Como. 3 settimane dopo, contro il Milan, Riva riporterà l'ennesimo infortunio della sua eccezionale carriera, ma sarà lo stop che lo costringerà a dire addio al calcio giocato a 31 anni. Senza i suoi gol, il Cagliari non riuscirà a risalire la china e chiuderà il campionato all'ultimo posto, costretto a salutare la Serie A a 6 anni dallo storico scudetto. Quindi una data che si è scoperto dopo essere una data triste, perché in realtà quel giorno del 76, quel 12 gennaio, Riva segnò ancora e nessuno, nemmeno lui, avrebbe potuto dire che sarebbe stato l'ultimo gol. 3 settimane dopo, ricordo bene l'infortunio in quella partita col Milan, fu una specie di disinserzione muscolare addirittura, proprio la gamba disintegrata dopo tutti quegli infortuni che aveva riportato, sacrificando anche, uso il consueto linguaggio retorico che inaugurò Brera a proposito di Riva, avendo sacrificato in carriera 2 gambe alla patria, no? Viste la doppia frattura tibia e perone, sempre con la maglia azzurra. Mario ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io Dica. Sono bergamasco, tengo Atalanta e tifo, tengo anche all'Inter, dunque non posso essere sospettato di dire cose. Allora, bicromatico, dire se... nero e azzurro integrale. Integrale. Voglio dire che se il Milan gioca come ha giocato domenica con l'Atalanta, non ci trova del palla neanche domenica, perché è troppo forte per noi quest'anno. E dunque, al di là dei rigori, sta meritando di vincere Bergamo. Spero che vinca l'Inter domani, ma la vedo dura. Però volevo portarla fuori dai discorsi degli arbitri, volevo farle questa domanda. Ci sono tanti argentini in Italia e in Europa molto forti, trequartisti, attaccanti, così come i brasiliani, che però non sono così affidabili. Però quando si ritrovano in nazionale i brasiliani vincono e gli argentini, a parte la parentesi di Maradona, non vincono mai niente. Perché? Questa è la mia domanda, l'ascolto da radio, buongiorno. Mario, una domanda epocale, sinceramente non... credo che ci vorrebbe un'analisi lunga, approfondita. Cioè, lei la domanda se l'ha preparata per chissà quanto tempo. Io sinceramente d'amblè non glielo so dire. Posso dirle che recentemente non è che vinca sto granché nemmeno il Brasile. Credo che sia difficile per tutte e due avere dei girovaghi, no? Avere dei adesso io non uso la parola mercenari, ma insomma il concetto è un po' quello. Avere gente che gioca in tutte le altre parti del mondo e poi doverla assemblare in pochi giorni, dover rimettere in quadro certe abitudini e soprattutto certe compatibilità tra di loro. È vero che storicamente il calcio brasiliano ha vinto, se parliamo di livello mondiale, ha vinto molto più di quello argentino, ed è vero anche che per vincere quello argentino ha avuto bisogno una volta di Maradona e una volta dei generali nel 78 a Buenos Aires. Non so, un po' alla volta ci penseremo, magari un giorno ci facciamo... non dico una puntata intera, ma quasi, per ragionare su questo fenomeno, e allora con calma si riesce magari a metterlo meglio a fuoco. Moratti, penso che Tevez andrà al Milan, è una dichiarazione di pochi minuti fa. Luca da Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Buongiorno. Anche io mi sono preparato la domanda da molto tempo, solo che non ho mai avuto l'occasione di potergliela porre. Stavo ascoltando prima in trasmissione il discorso della moviola in campo, tutto quello che si discute durante e anche dopo le partite. Io sono un ex giocatore di football americano in Italia e seguo lo sport anche in America. In America, nel football americano, ci sono in campo ben 5 arbitri, quindi non 3, i due guardalinee più quello in campo, ma sono 5. E l'arbitro principale ha a bordo campo l'instant replay, cioè se un allenatore di una delle due squadre chiede una verifica sul campo, praticamente l'arbitro ferma la partita, fa la challenge, praticamente va a verificare che cosa è successo in quell'azione ed eventualmente se ha ragione l'allenatore ad aver chiamato questa sfida, viene diciamo commissionata la punizione o comunque il fallo. Se l'azione era tutta regolare, quindi l'arbitro aveva ragione in campo, in questo caso nel football si perde un time out. Adesso nel calcio il time out non esiste, però credo che tutto sommato sia una questione di volontà, cioè se si può fare questa cosa qua dove 11 giocatori per parte in campo, quindi sì, sì, no, ma è chiaro Luca, è chiaro. Infatti il football americano lei l'ha giocato, quindi non intendo, probabilmente qualsiasi sport, qualsiasi disciplina a giocarla è una cosa, a vederla è un'altra. Noi in Italia, in Europa, abbiamo altre abitudini, non sono il solo a non tollerare il football americano per i tempi morti pazzeschi che ci sono in questo gioco. Il calcio è una cosa leggermente diversa, il calcio non si gioca con le mani ma si gioca con i piedi, quindi consente molti più margini di errore, e da lì anche l'idea, la filosofia, lo spirito di tollerare il meno possibile ma anche dei margini di errore non solo da parte di chi esegue ma anche da parte di chi giudica e chi valuta. Gianni da Ferrara, buongiorno. Buongiorno Gigi, ascolti, io sono sempre stato abituato che quando c'erano dei film intrigati si andava sempre alla voce degli autori. Perché dico questo? Perché domenica sera la D'Amico per Sky 24, per Sky, ha intervistato Manfredini, l'autore del rigore che hanno dato al Milan, e Manfredini ha detto che se fosse stato un giocatore del Milan e il rigore non glielo avessero concesso si sarebbe arrabbiato. Cioè io non capisco cosa sia tutto questo astio contro questo rigore, cioè io non lo capisco proprio. Come non capisco logicamente quei due punti fregati a Firenze con rigore su Pato e il gol annullato a Sero. Cioè si parla sempre dei favori al Milan e non e non delle rapine che povero Milan subisce, eh? Questo sta dicendo. Più o meno sono tutti uguali, cioè il Milan non gli ha dato un rigore a 2 metri fuori dall'area e espulso il portiere come hanno fatto a Cesena con la Juventus, cioè capisce queste cose, oppure dei gol in fuorigioco di 2,5 metri come quando c'era Mourinho in Siena Inter. Gianni, lo so, basta che sa qual è il problema, che uno può organizzare qualsiasi dibattito, qualsiasi confronto, qualsiasi opinione, no? Cercando di tenere alla larga tutte queste cose che sono poi il tiro alla fune, no? Che trovo veramente un esercizio avvilente per chi lo fa, ma poi basta aprire un attimo i microfoni e se il primo di giornata o il secondo al più tardi si butta sulla moviola, dopo chissà perché scatta questo meccanismo di imitazione, come se la RAI, eliminando per l'appunto la moviola, anziché cercare di far passare, e lo ha fatto, un messaggio culturale, avesse in realtà creato dipendenza, no? E quindi ci fosse ancora più bisogno e ancora più richiamo. Secondo fonti francesi l'accordo tra il PSG e il Milan per Pato sarebbe in dirittura arrivo, sulla base di 35 milioni per il cartellino e di 7 milioni di euro l'anno a Pato. Auguri anche ai francesi, così come auguri al Milan per Tevez. Grazie a tutti, a Pietro Lacorte in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio. Arancia Rosaria, la salute vien mangiando e bevendo. Aranciarosaria.it vi ha presentato A Tempo di Sport.